sarebbe, non saresti venuta mai. E ti scorgo dal finestrino, sei la più bella, amore. E mi sforzo di ridere, ma il sorriso mi sta sul labbro e non riesco più a aprire il pugno come in un sogno. Ora non sento più niente, guardo ma non ci sei, vedo gli occhi della gente, sono sconvolti i tuoi, e i miei sono due fari spenti, perduti in quelli tuoi, che non vivono di luci ma di riflessi. Questo ghiaccio non scioglie mai, sento freddo ma non paura, non mi sfiora neanche un filo del tuo respiro ormai, e il tuo bacio lo bacerei, ma rimango paralizzato come al primo appuntamento, sono imbranato. Ora non sento più niente, cerco la mano tua che si stringe alla mia bocca, che non mi tocca ormai, e la tua voce lontana che non arriva mai, per chi suona la campana questi rintocchi miei. Eccomi distinguere le parole dal tuo profumo che si intriga già.